Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Il crescere della tensione in Egitto con il colpo di Stato che ha deposto Morsi, l'insediamento del nuovo presidente ad interim per Mansour, fa preoccupare anche i tanti turisti che pensavano di trascorrere una tranquilla vacanza nei principali centri di attrazione della zona, sia sul Mar Rosso, da Sharm el Sheikh a Marsalam, Hurghada, sia in Alto Egitto, Luxor, Assuan, tanto per citare le località più note e più famose. I tour operator si mostrano tranquillizzanti, in particolare per quanto riguarda le mete del Mar Rosso. Il discorso è un po' diverso per le città come Alessandria e il Cairo. Anche sul sito della Farnesina si consiglia di rinviare i viaggi se non nei casi assolutamente necessari. Salvadanaio fa il punto della situazione individuando i comportamenti più corretti e prudenti che si devono adottare in circostanze come questa, ricordando quali sono anche le tutele previste in questi casi per i consumatori. Torneremo però anche a rispolverare un caso e una situazione che ha rovinato le vacanze a molti italiani esattamente un anno fa. Vi ricorderete le vicende di Winjet, la compagnia siciliana, la compagnia aerea siciliana, che ha decretato lo stop ai voli esattamente il 12 agosto di un anno fa, nel pieno delle ferie di molti italiani, lasciandone tanti a piedi o comunque negli aeroporti. Ci sono delle novità perché la società è in procedura di concordato preventivo e chiaramente tutte le persone che lo scorso anno hanno visto le vacanze rovinate per questa vicenda chiedono ancora dei rimborsi, dei risarcimenti. La società ha proposto un rimborso irrisorio, nessun indennizzo, nessun risarcimento, per cui faremo il punto della situazione, perché chiaramente le associazioni dei consumatori non ci stanno e hanno già suggerito alle persone che a cui è stato chiesto se vogliono aderire o meno al concordato, appunto, hanno suggerito loro molto palesemente, appunto, di rifiutare, di rinunciare. Faremo il punto della situazione anche su questo, chiaramente come sempre cercando di animare la trasmissione con i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24. Oppure scriveteci al 349-238-6666, scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, andate a curiosare su Facebook, se volete, al nostro profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Vi presento subito gli ospiti di quest'oggi. Intanto l'avvocato Carmelo Calì, legale dell'associazione Conf Consumatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei e gli ascoltatori. L'avvocato Calì è il nostro grande ospite delle trasmissioni estive, perché non c'è anno, non c'è estate in cui non abbiamo una rogna turistica da raccontare. Avvocato, non è vero? Sì, infatti. Anche quest'anno abbiamo delle novità. E poi con noi Marina Firrao, caporedattore l'Agenzia di Viaggi, che è il primo network multimediale dell'informazione turistica in Italia. Marina, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Deborah, grazie dell'invito. E poi grazie anche a Flavia Franceschini, la dottoressa Franceschini, direttore operativo di Astoi, che è l'associazione dei tour operator italiani, che hanno naturalmente organizzato, predisposto una task force per presidiare con grande attenzione la questione appunto egiziana. Dottoressa Franceschini, benvenuta anche a lei. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori, saluto anche l'avvocato Calì e Marina Firrao che conosco. Benissimo, abbiamo messo insieme un po' di amici che ci potranno aiutare a capire come ci dobbiamo comportare, perché chiaramente magari il discorso è un po' diverso per chi ha prenotato la vacanza in Egitto ma non ha intenzione di partire prima di qualche mese, magari insomma un po' di tempo ce l'ha per decidere cosa fare, ma se qualcuno deve partire domani, dopodomani, piuttosto che fra una settimana, a metà agosto, chiaramente la situazione lì è in evoluzione, ma non è totalmente tranquillizzante, anche se appunto, come abbiamo detto, bisogna fare una differenziazione di aree. Prima di tutto questo però, molto rapidamente, la borsa. È una giornata fiacca, non vorrei perdere molto tempo con i mercati finanziari. Oggi ci concentriamo tutti sull'appuntamento del primo pomeriggio, il dato sulla disoccupazione americana, perché da quel dato poi, anche in quel caso, la Banca Centrale Americana deciderà se continuare la politica monetaria espansiva o cominciare a tirare remi in barca, come ha già promesso Ben Bernanke. E invece ieri Mario Draghi, per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, ha detto: la nostra politica monetaria sarà ancora molto accomodante a lungo, forse anche più accomodante di adesso, e probabilmente un'altra sforbiciata ai tassi arriverà nel mese di settembre, forse dopo le elezioni tedesche, quindi tra settembre ed ottobre. Detto questo, ieri le borse hanno preso il volo, hanno spiccato il volo, oggi frenano leggermente, abbiamo dei cali dello 0,15% a Parigi, meno 0,10% a Francoforte. Londra invece continua a correre e segna più 0,7% sul FTSE 100, Milano sul FTSE MIB meno 0,20%. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina: Egitto e vacanze. Mar Rosso, Sharm el Sheikh, il Cairo, Delta del Nilo. Sono solo alcune delle località che ci fanno venire in mente vacanze da sogno e che puntualmente abbiniamo all'Egitto. Quando si avvicinano le ferie, le progettiamo o sentiamo invidiosi i racconti di qualche amico, familiare o collega. In questi primi giorni di luglio, però, l'Egitto viene abbinato a ben altro e le grandi attrazioni turistiche e le spiagge da sogno sono passate un po' in secondo piano. Il crescere della tensione politica ha portato il paese al centro delle cronache internazionali, soprattutto dopo il colpo di Stato che ha deposto Morsi e l'insediamento di un nuovo presidente ad interim, Mansour. Se tutto il mondo guarda giustamente con preoccupazione a questa situazione, c'è anche chi ha prenotato una vacanza in quelle zone e si preoccupa prima di tutto per la sua sicurezza e poi anche per la cifra spesa. Che ne sarà del suo viaggio? Decidendo di non partire, si potrà essere rimborsati alla luce di questa situazione? È prudente partire? La risposta sembra essere dipende. I tour operator stanno tranquillizzando la loro clientela, in particolare per quanto riguarda le mete del Mar Rosso, e si dicono disposti a offrire la massima consulenza. Per il momento né partenze né ritorni risentono di alcun tipo di disagio. Il discorso è un po' diverso per le città, come Alessandria e il Cairo, e per il Delta del Nilo. Dalla Farnesina e in particolare dal portale www.viaggiaresicuri.it consigliano di rinviare i viaggi se non nei casi assolutamente necessari. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Abbiamo colto al volo la domanda di Amalia dalla provincia di Monza, che naturalmente ci dà il modo di avviare quindi con un caso concreto la nostra trasmissione. Amalia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, arriva sempre ad hoc. Grazie, ci dica. E niente, mia figlia dovrebbe partire in agosto, i primi di agosto, per Marsan Matruh. Ovviamente sia mia figlia che mio genero sono già in fibra relazione, certo. E certo, io ieri sono andata in agenzia perché mia figlia non è riuscita ad andare e loro ovviamente mi hanno tranquillizzato che non c'è da preoccuparsi, che le prime persone a cui vengono visati sono loro, appunto l'agenzia. E di stare tranquilli. Ovviamente io come mamma non sono tranquilla. Loro partono. Penso che non vanno, penso ci smenano il 50%, mi ha detto l'agenzia. Vogliono rinunciare, quindi loro vogliono rinunciare. E penso proprio di sì. Penso proprio l'agenzia non ha aperto alla possibilità di cambiare magari la destinazione per non far perdere proprio loro l'opportunità di un viaggio? No, no, non me l'hanno proposto, anche perché mia figlia andrebbe in un'altra località, ha parlato della Sardegna, però pare che non si possa fare una cosa del genere. Amalia, sentiamo che cosa dicono i nostri operatori del settore. Grazie. Grazie, molto gentile. A presto. Allora, grazie Sandra, buongiorno. Prima di tutto, Marina Firrao, adesso risponderemo all'ascoltatrice, cercheremo di rassicurarla per quanto più possibile, poi è chiaro che ogni persona deve prendere delle decisioni individuali, ma è vero che il turismo a Sharm el Sheikh l'hanno inventato gli italiani? Sì, senz'altro, sono stati prima un manipolo di sub inglesi, poi i sub italiani hanno cominciato a frequentare sempre più spesso nei primi anni 70 addirittura quelle 3-4 villaggetti che c'erano a Sharm quando non c'era nient'altro che quello, villaggetti di pesca, e poi sono partiti i primi gruppi organizzati, i marchi di allora erano Bestour, Turisandal, Rallo, poi è arrivato i Viaggi del Ventaglio con i primi charter negli anni fine anni 80. E è per questo che gli italiani a Sharm, prima delle primavere arabe, prima della crisi economica, erano circa 1 milione l'anno, e i tour operator laggiù ci rimpiangono, l'Egitto ha fatto di tutto per convincere gli operatori italiani, ci ha supportato, ha supportato i charter, ha finanziato, ha sostenuto in tutti i modi il turismo italiano, è uno dei motivi per cui tutti i ragazzi a Sharm, chiunque lavori nel turismo parla italiano, siamo arrivati ad essere il 35%, tra il 35 e il 40% del totale degli arrivi stranieri a Sharm. Certo, sono delle località che si raggiungono intanto in tempi ragionevoli, il mare è meraviglioso, mete chiaramente anche al di fuori dell'alta stagione, sempre molto gettonate, molto gradevoli, e quindi poi ecco un rapporto tra contenuti e costo che è tra i migliori sul mercato. Il Mar Rosso è uno dei punti forti per le agenzie di viaggio e per il turismo outgoing italiano, quello del tour operating. E per cui insomma ecco che la situazione dispiace anche un po' di più agli operatori del settore, che chiaramente magari hanno venduto sempre molto bene queste mete, queste rotte. Dottoressa Franceschini, direttore operativo di Astoi, credo che il caso dell'ascoltatrice che ci ha appena chiamato sia come dire tra quelli con i quali vi siete dovuti più frequentemente confrontare negli ultimi giorni, no? Intanto è vero che esiste una task force da parte di Astoi, e che è tra l'altro anche allineata nelle informazioni che dà a quelle che indica il Ministero degli Esteri, la Farnesina. Corretto, Deborah. Noi rappresentiamo circa l'80% del tour operating italiano, e chiaramente i nostri soci programmano centinaia di destinazioni al mondo e fanno viaggiare milioni di connazionali in Italia e all'estero. Quindi abbiamo rapporti molto stretti con il Ministero degli Affari Esteri, con la Farnesina, con le ambasciate e con i consolati italiani sparsi nei paesi del mondo programmati dai nostri soci. In questi casi c'è appunto, si attiva una task force, uno scambio di informazioni sia con i soci che con i vari interlocutori istituzionali. Noi stessi divulghiamo gli avvisi e gli aggiornamenti degli avvisi della Farnesina ai nostri soci, che sono quindi costantemente aggiornati. Il caso presentato dall'ascoltatrice sì. che ha telefonato parlava di Marsa Madru è una località balneare meravigliosa sulla costa mediterranea. Per dare un dato, mediamente in questo periodo accoglie circa 3.000 persone a settimana, quindi sul mese di luglio, diciamo la proiezione mese, sono 12.000 italiani. E in questo caso devo dire che non abbiamo ricevuto richieste di variazione di destinazione o di cancellazioni, nel caso proprio specifico citato dall'ascoltatrice. Perché la situazione, vi posso confermare, così come nelle località turistiche balneari del Mar Rosso, quindi Sharm el Sheikh, Marsalam e Hurghada, è assolutamente tranquilla. Mm-hmm. Ecco, detto questo, dopo aver dato tutte le rassicurazioni del caso, perché è giusto e opportuno fare le dovute distinzioni fra città e città, località e località, detto questo, è chiaro che legittimamente ci si preoccupa, no? Se siamo particolarmente così portati e non convinti di partire, come può risistemare insomma la sua situazione la figlia della nostra ascoltatrice? Ci dia un'indicazione concreta, dottoressa Franceschini. Comunque perderebbe veramente il 50% dell'importo che finalmente... geografico, ma anche richiamandosi al testo proprio dell'avviso della Farnesina. Chiaramente la Farnesina ha emesso quello che tecnicamente si chiama sconsiglio sulle località turistiche chiaramente dell'Egitto classico, quindi stiamo parlando del Cairo, di Alessandria, di Port Said, e in questi casi i nostri soci sono assolutamente allineati, nel senso che qualora, posto che le prenotazioni su queste destinazioni erano veramente risibili, sono risibili, nel momento in cui un cliente volesse cancellare il viaggio su queste particolari zone, il tour operator chiaramente propone innanzitutto una meta alternativa, uno slittamento data partenza o comunque una meta alternativa. Qualora il cliente non voglia accettare, in buona sostanza può chiedere e ottenere sicuramente il rimborso di quanto versato per il viaggio. Per quanto riguarda invece le località balneari del Mar Rosso, lo stesso testo della Farnesina è tranquillizzante, nel senso che riporta quella che è la verità, vale a dire la tranquillità sulle zone turistiche del Mar Rosso, e notiamo che da questo punto di vista i clienti non sono, non hanno particolari preoccupazioni, i nostri soci non stanno arrivando telefonate a pioggia sul Mar Rosso, perché a mio parere sanno fare, a differenza che rispetto all'inizio della primavera araba, sanno fare i dovuti distinguo, ormai hanno capito che sono zone tranquille, quindi gli stessi clienti rispetto a queste destinazioni sono assolutamente sono sereni. Quindi insomma speriamo di avere, è un peccato che telefonate relativamente a queste destinazioni, devo dire che ci sono casi dettati da emotività eccetera, le gestiscono perché comunque hanno chiaramente sempre politiche commerciali che vanno a favore dei propri clienti. Certo. Avvocato Calì, prima di andare al suo grande cavallo di battaglia che è la vicenda di Winjet, quindi ritorneremo indietro di 12 mesi, ricorderemo quello che è successo un anno fa e faremo un punto della situazione, ma su tutta la vicenda invece turismo verso l'Egitto, ha qualche suggerimento da dare ai consumatori, ascoltatori? Ma io ritengo che ancora una volta accade quello che si è verificato nel passato, fino allo scorso anno, ad esempio a febbraio, in occasione del fatto delle Maldive. Qui secondo me bisognerebbe avere un pochettino di buon senso da parte di tutti, perché la questione che poneva la signora, per come l'ha espressa, è proprio il sintomo che non ci troviamo di fronte a un consumatore che pretestuosamente chiede l'annullamento di un contratto di viaggio, ci troviamo di fronte a un consumatore che ha le preoccupazioni della madre, che poi saranno le preoccupazioni di chi deve partire. Ora, è stato chiarito dalla giurisprudenza che la causa concreta di un contratto di pacchetto turistico è proprio la finalità turistica, lo scopo di rilassarsi, eccetera. Allora, se viene meno questa causa per un fatto che sopraggiunge dopo che io ho stipulato questo contratto, è chiaro che quel contratto deve annullarsi. Ora, non dobbiamo certamente farci contenziosi, però dobbiamo capire, comprendiamo le esigenze di tour operator, però dobbiamo capire anche che ci sono dei diritti che i consumatori devono avere riconosciuti, e non gli si può dire ti faccio pagare la penale. Bisognerebbe avere, come diceva giustamente lei, un po' di consenso, di buon senso, e trovare una soluzione. Certamente ci vorrebbe anche da parte della Farnesina una chiarezza maggiore, perché la frase nei casi strettamente necessari è un eufemismo che lascia aperta la strada ad entrambe le soluzioni. In agosto, infatti. E quindi bisognerebbe avere anche più notizie. Certo, abbiamo capito le posizioni di entrambe. Chiedo un commento ad un arbitro super partes, Marina Firrao. Tu che ne pensi delle posizioni espresse diverse relativamente alla posizione di chi in questo momento in procinto di partire si è spaventato, e anche se teoricamente dovrebbe raggiungere una località totalmente tranquilla, non raggiunta da nessuna forma di protesta, appunto, da parte della popolazione egiziana, però appunto nonostante questo si è spaventato, adesso non vorrebbe più partire. Noi italiani siamo abbastanza emotivi, ci spaventiamo abbastanza facilmente anche quando non ce n'è bisogno, diversamente da altri popoli che invece sfidano le intemperie politiche, fisiche, meteorologiche, come gli inglesi, i tedeschi, partono, non gliene importa niente. Ma io penso che in questi casi il dialogo tra tour operator e cliente sia curato al meglio dall'agenzia. Io penso che l'agenzia di cui parlava la signora prima abbia preso giustamente tempo, forse non si è spiegata bene. Si tratta di partire ad agosto, quando probabilmente, come tutti ci auguriamo, la situazione egiziana sarà più chiarita per un verso o per l'altro, nel bene e nel male. Io credo che le agenzie sono quelle che tengono i fili di questa questione, aiutando i loro clienti ad ottenere quel che giustamente spetta loro, tenendo presente che i tour operator rischiano un sacco di soldi in tutto questo tipo di operazioni, che servono sostanzialmente ad abbassare il prezzo del prodotto, perché nessuno andando in Egitto per proprio conto terrà un prezzo a meno di non correre altri rischi, di non mettersi di fronte ad eventi che non può controllare, ma nessuno può ottenere un prezzo migliore di quello che ottiene un tour operator che compra molti posti, che corre dei rischi economici e finanziari per avere quel prezzo. E quindi la funzione del tour operator in questo caso è a favore dei clienti, del passeggero. L'agenzia di viaggi può lavorare, pur non essendo minimamente responsabile in solido in un caso di questo genere, non deve rispondere al cliente personalmente, l'agente di viaggi, però è l'uomo, quando è bravo, quando è in gamba, e ce ne sono tantissimi, che per etica professionale, per impegno personale con il cliente, crea le condizioni per fargli ottenere il giusto, per rassicurarlo se il pericolo oggettivamente non c'è, per fargli ottenere il rimborso oppure un'alternativa. No, poi non a ci dimentichiamo i dettaglianti capaci. E non ci dimentichiamo che comunque i tour operator hanno anche le loro persone che lavorano in queste località e che ovviamente non hanno nessun interesse a farle lavorare in situazioni ad alto rischio. Detto questo, però, è condivisibile anche appunto la posizione dell'avvocato dei consumatori. Adesso dobbiamo andare in pausa, abbiamo il nostro primo blocco pubblicitario, 800 24 00 24, per continuare a raccogliere le vostre testimonianze, i vostri commenti sul tema di questa mattina, le vostre domande, se volete anche riesumare il caso Winjet, qualora lo scorso anno siate rimasti bloccati in qualche aeroporto italiano perché il 12 agosto la compagnia ha detto stop ai voli, raccontatecelo come è andata a finire anche per voi. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salvadanaio, un Salvadanaio che oggi affronta la questione egiziana non dal punto di vista politico, naturalmente le novità ve le abbiamo raccontate anche nel corso delle nostre trasmissioni dedicate all'informazione nella mattinata, ma ci occupiamo di tutti quegli italiani che avevano in previsione di andare a passare le loro ferie in queste località, nelle località più rinomate appunto dell'Egitto, quelle che piacciono tanto agli italiani e che le hanno appunto frequentate moltissimo negli ultimi anni, un po' meno da quando sono scoppiati i problemi legati complessivamente a tutta quell'area, la primavera araba. Allora, se siamo in procinto di partire e adesso ci stiamo ripensando, cosa dobbiamo fare con il nostro tour operator? O qualora avessimo prenotato magari per i mesi a venire, è il caso già di ripensarci, esercitare un eventuale diritto di recesso dalla nostra previsione? Appunto, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. Volevo risentire per un attimo la dottoressa Franceschini, Flavia Franceschini, direttore operativo di ASTOI, l'associazione dei tour operator, che immagino avesse qualcosa da replicare all'avvocato Calì sulle riflessioni fatte nella prima parte del programma. La vacanza è il momento in cui abbiamo scelto per rilassarci completamente. Se partire appunto per l'Egitto in questo momento adesso potrebbe compromettere il nostro benessere, lui dice il tour operator ha poco da contestare, deve ridare tutta la caparra eventualmente che si è data, comunque risarcire il viaggio, restituire tutto quello che è stato già versato e pagato. Assolutamente no, io volevo ricordare a Calì che insomma quando esplose la primavera araba il 4 febbraio 2011 facemmo addirittura un comunicato congiunto con alcune delle maggiori associazioni dei consumatori, non c'era consumatori è vero, in cui dicevamo chiaramente e concordavamo quindi una linea di condotta e dicevamo chiaramente al cliente di attendere l'evoluzione della situazione, questo con particolare riferimento per esempio al caso di Marsa Matru, e ringrazio Marina che ha fatto una fotografia perfetta, nel senso che si trattava per esempio di una partenza di agosto e quindi in questi casi si consiglia al cliente di attendere l'evoluzione, cancellazioni non vengono accettate. Rispetto al discorso della finalità turistica, allora i nostri soci chiaramente non hanno alcun interesse a gestire in modo rigido i clienti, no? Perché sono il loro bene più prezioso, quindi hanno politiche commerciali che sono flessibili. In ogni caso, nel momento in cui si tratta di zone che appunto non sono espressamente sconsigliate e come da informazioni generali sia da parte della Farnesina che dei corrispondenti in loco che tutti i nostri tour operator hanno nelle varie zone turistiche, si sa che la situazione è tranquilla, è chiaro che non c'è motivo per non applicare le condizioni generali di contratto. Certo. Senta, qualora, come solleva un ascoltatore, in un pacchetto di viaggio, lei dice insomma ci sono determinate località, qualora una persona avesse in programma di restare per una settimana, 10 giorni a Sharm el Sheikh, piuttosto che nelle località appunto nei resort sul Mar Rosso, allora in questo caso si può stare più tranquilli rispetto ad altre località eventualmente scelte. Ma se nel pacchetto fosse compresa, oltre alla settimana sul Mar Rosso, anche eventuali escursioni in altre località, tipo al Cairo, dove invece la situazione appunto è differente, a parte il fatto che magari il tour operator in quel caso non organizza più l'escursione su quel posto appunto, ma lì in quel caso il consumatore può pretendere una rimodulazione, una revisione del prezzo complessivo del pacchetto? Sì, quando si tratta di escursioni praticamente in zone diciamo comunque particolarmente diciamo attenzionate, anche se il termine è bruttissimo, i nostri soci offrono soluzioni alternative, questo senza meno. Allora, intanto salutiamo su Twitter Vincenzo, e molto simpaticamente dice: dopo anni senza ferie, solo lavoro e crisi, se me lo offrissero penso che andrei in vacanza anche a Damasco, quindi lui andrebbe anche in Siria. È chiaro che abbiamo tutti delle circostanze e un'emotività molto molto differente. Un altro ascoltatore ci scrive al 349-238-6666, è Massimo da Desenzano. Mia moglie parte domani per Marsa Alam. Quella zona è sicura anche perché non può più fare altro che partire, visto che chiaramente siamo proprio a ridosso della partenza, altrimenti perde tutto. Dottoressa Franceschini, ritorno ancora da lei, dal quello che dice il Ministero degli Esteri, e voi potete confermare, credo che sia una delle località più tranquille. Assolutamente sì, Marsa Alam in particolare mediamente insomma a settimana accoglie 8.000 italiani, insomma i nostri soci ci mandano 8.000 italiani, quindi possiamo dire che Marsa come Hurghada, come Sharm el Sheikh sono località veramente tranquille, ma non è diciamo una posizione pro domo nostra, ecco, lo è effettivamente. Poi ce lo faremo anche confermare, perché ci colleghiamo tra poco telefonicamente anche con lui, con da Luca Battifora, che è l'amministratore delegato di Hotel Plan Italia, che è un tour operator appunto che tra quelli che più massicciamente organizza viaggi in queste zone. Ritorno però adesso a Carmelo Calì, perché qua dobbiamo un attimo rispolverare una vicenda che ha mandato in fumo le vacanze di molte persone nell'agosto dello scorso anno, perché chiaramente quando poteva scoppiare? A metà estate, naturalmente, avvocato Calì, no? Quante trasmissioni abbiamo fatto un anno fa sulla vicenda di Winjet, una società che stava cambiando proprietà, c'erano un po' di assetti societari in corso di revisione e tutto sommato, insomma, questioni che non si sono finalizzate. Il 12 agosto la compagnia dice basta, stop ai voli, proprio nel bel mezzo delle vacanze, a 3 giorni da Ferragosto. Ad oggi come sono state tutelate quelle persone? Avvocato Calì, cosa sta succedendo in questi giorni? Ma diciamo che in questi giorni si sta consumando un triste epilogo di quella vicenda, perché in questo anno si è atteso che la società potesse formulare una proposta, prima aveva parlato di un concordato di preventivo di continuità e quindi con la possibilità di prosecuzione con una nuova compagnia, ma qualcosa sarebbe stata certamente diversa anche sul piano risarcitorio per i passeggeri. Adesso vi è un concordato liquidatorio, la proposta, come diceva lei, quella di un 5%, quindi somma del tutto irrisoria. Sì, praticamente è proprio come non rimborsare. Certo, come non rimborsare, perché se noi portiamo ad esempio un passeggero che ha acquistato un biglietto per 70 euro, gli spetteranno 3 euro e mezzo, tra l'altro potrebbero anche essere scaglionati in più anni, quindi siamo a livelli di rimborso veramente ridicoli, più che irrisori. Ecco, voi avete dato un consiglio di agire in un determinato modo entro il 19 luglio, intanto perché entro questa data? Sì, diciamo il 19 luglio ci sarà davanti al Tribunale di Catania l'udienza, l'adunanza dei creditori, quindi tutti i creditori, fra questi anche i passeggeri. Tutti i passeggeri sono stati inseriti da parte della compagnia in un elenco, nel quale è stato indicato anche quindi il prezzo pagato dal passeggero per acquistare il biglietto e il passeggero dovrà scegliere se votare o meno, perché qui ci troviamo di fronte a una proposta di concordato che deve essere approvata o meno dai creditori. In base alla legge, chi non vota è come se votasse a favore del piano, quindi tutti coloro che non esprimeranno il proprio voto, un silenzio assenso nella sostanza. Quindi noi stiamo invitando, proprio perché questo rimborso lo riteniamo assolutamente irrisorio, stiamo invitando tutti i passeggeri a esprimere il proprio voto contrario. Questo potranno farlo fino all'udienza e potranno farlo anche nei 20 giorni successivi. Ecco, tra l'altro voi avete anche inoltrato delle procure alle persone che sono interessate a questa vicenda, sì, no? Proprio diciamo la forma di espressione del voto, il passeggero innanzitutto può votare autonomamente senza bisogno dell'assistenza di nessuno, lo può, noi abbiamo messo sul nostro sito uno schema di lettere con cui il passeggero può inviare o al tribunale o al commissario giudiziale una raccomandata con cui dice io esprimo il mio voto contrario a te e chiedo che di questo si tenga conto nel compito della maggioranza. Ecco, per concludere su questa vicenda, poi abbiamo ancora il resto della trasmissione, voi che cosa chiedete? Una restituzione totale di quanto pagato dai viaggiatori più un eventuale indennizzo, risarcimento? Qual è la richiesta delle associazioni dei consumatori? Ma lì il problema è che anche diciamo noi si potrebbe teoricamente anche richiedere il risarcimento, il problema è che se passa il piano comunque anche il riconoscimento del risarcimento sarebbe liquidato nella misura del 5%, quindi per adesso diciamo la partita si gioca sull'approvazione o meno del concordato, perché se il concordato passa passerà il 5%, se il concordato non passa si apriranno altre strade che potrebbe essere anche quelle, e quindi diciamo poi si può vedere un attimo quale potrebbe essere la soluzione. Flavia Franceschini, ritorno da lei, dov'era un anno fa il 12 agosto? Ero in una splendida isola del Mare Egeo, l'isola di Karpathos, quando appunto il 12 agosto praticamente ci fu lo stop ai voli da parte della compagnia, e in questo l'avvocato Galì ha in Astoi un ottimo alleato, nel senso che chiaramente noi da tempo facciamo una battaglia per un fondo di garanzia che possa coprire anche casi simili. In quell'episodio, in quell'occasione praticamente ci fu una differenza, nel senso che chi aveva acquistato un biglietto singolo, quindi per il volo esclusivamente, rimase col biglietto in mano, e adesso si sta vedendo proporre quello che giustamente l'avvocato Galì citava come rimborso irrisorio. Ho letto che mediamente per un biglietto di 70 euro addirittura spetterebbero ai passeggeri, correggimi Carmelo se sbaglio, 3,50 euro, ecco, stiamo parlando di una cosa indegna. Ci confermo. E in quel caso però ci fu una grossa differenza, perché chi aveva acquistato un pacchetto nel quale erano presenti i voli di WinJet ebbe la riprotezione totale da parte del tour operator, che sostenne questi maggiori costi che in queste situazioni rimangono esclusivamente a carico dei tour operator. Quindi noi in quell'occasione facevamo proprio un comunicato stampa, l'11 agosto avevamo scritto già una lettera a Vito Riggio per scongiurare la revoca della licenza c'è stato un braccio di ferro che è durato tantissime settimane, perché ce lo ricordiamo benissimo, però anche lui alla fine non ha potuto fare niente. Insomma, ci sono casi che ci toccano direttamente. Da tempo noi proponiamo un fondo di garanzia, oggi l'Italia è sotto una procedura di infrazione comunitaria, perché il fondo di garanzia presente dell'Istituto presso il Dipartimento del Turismo è un fondo assolutamente incapiente. Da tempo proponiamo una battaglia affinché questo fondo venga alimentato non sempre solo dalle risorse prese dalle casse delle agenzie di viaggio e del tour operator, perché non sono soldi pubblici quelli che alimentano il fondo, ma sono soldi privati, ma anche da risorse che possano coprire casi di emergenze legate al fallimento, all'insolvenza dei vettori e a situazioni che appunto come quella di WinJet possono benissimo accadere, e magicamente accadono sempre durante un picco stagionale, ecco, infatti è immancabile. Benissimo, benissimo, insomma mica tanto, speriamo di non dover aprire scommesse per così già cominciare ad immaginare quello che potrebbe succedere l'anno prossimo. Le conseguenze della situazione egiziana non si stanno facendo sentire soltanto generando un po' di preoccupazione tra i turisti che dovevano recarsi da quelle parti. Gli effetti si potrebbero sentire anche a casa nostra, andando a pesare economicamente su vacanze progettate pensando a mete ben più vicine. La tensione politica al Cairo, infatti, ha provocato un aumento del prezzo del petrolio, sui timori che si possano riscontrare dei problemi sul canale di Suez. E con il petrolio crescono anche i prodotti raffinati, che hanno registrato rispettivamente un aumento di 15 e 16 euro su 1000 litri per benzina e diesel. E così sale il prezzo della benzina anche sulle strade italiane, con una crescita evidente nel caso di più compagnie. I prezzi medi nazionali della benzina e del diesel ieri salivano rispettivamente a 1,820 e 1,720 euro al litro. Dobbiamo aspettarci vacanze in auto più care? Così care al punto che per qualcuno potrebbe essere la goccia di benzina che fa traboccare il vaso? I benzinai, che lamentano una perdita del 50% del volume d'affari negli ultimi 3 anni, confermano intanto lo sciopero, seppur limitato ai soli distributori delle tratte autostradali, dal 16 al 19 luglio prossimi. Ci sembrava interessante così offrirvi anche questa pillola che descriveva un'altra conseguenza della tensione egiziana. Luca Battifora, amministratore delegato di Hotel Plan Italia, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno a lei. Cosa dicono i turisti che avete portato in Egitto in queste settimane? Vi sono arrivate telefonate di preoccupazione? C'è tensione? Quali sono state intanto le mete più gettonate? Perché credo che, come indichi la Farnesina, non sono esattamente quelle al centro della tensione politica. Sì, guardi, con il doveroso distinguo tra i passeggeri, i clienti che sono in viaggio nell'Egitto, diciamo, tradizionale, classico, quindi crociere sul Nilo, e tour culturali, è completamente differente la situazione rispetto a chi sta facendo un soggiorno balneare nelle mete che noi proponiamo, quali Marsa Alam, Berenice, quindi nel sud del Mar Rosso. I primi, ovviamente, su chi è rientrato senza alcun problema, è terminata la vacanza. Chi è in viaggio abbiamo seguito attentamente che non avesse difficoltà nei territori, ma devo dire che si è svolto tutto senza alcuna preoccupazione, mentre chi doveva partire, seguendo anche le indicazioni della Farnesina con la quale siamo in continuo contatto, anche attraverso l'associazione STOI, abbiamo proposto mete alternative o comunque abbiamo valutato ogni singolo caso. Ecco, cioè, ma state ricevendo già delle comunque disdette? Ma un numero rilevante? No, perché non abbiamo notato una particolare preoccupazione per chi deve svolgere un viaggio nei mesi a seguire. Stanno guardando come evolve la situazione sul territorio. Nel caso del Mar Rosso, dove abbiamo anche lì personale nostro italiano, oltre che personale dei nostri fornitori locali egiziani, devo dire non c'è alcuna indicazione neanche lieve di problematiche, né su Sharm, né su Gada, né su Bar Salam, che è la zona dove noi operiamo in maniera La situazione chiaramente adesso è attentamente presidiata, si vive un po' sul giorno per giorno. Stamattina su Repubblica il collega Eugenio Occorsio pubblica e descrive il report di una delle più grandi banche di investimento mondiali, Merrill Lynch, che dà all'Egitto, in termini economici e politici, una vita residua di appena 6 mesi. Debiti e turismo, un paese molto indebitato, il turismo è a picco, per le banche è incubo, fallimento addirittura di questo paese. Chiaramente anche voi dovete tenere in considerazione appunto queste indicazioni. Sarete costretti a rimodulare un po' le offerte verso queste aree prossimamente? Che ne dice? O state già prendendo in considerazione un'eventualità di questo genere? No, la stiamo tenendo monitorata. Devo dirle che l'Egitto, in particolar modo il Mar Rosso, è una destinazione estremamente strategica per il turismo italiano che viaggia verso l'estero, perché è una meta che coniuga qualità, convenienza, poche ore di volo e una stagionalità praticamente di tutto l'anno con tempo buono. Quindi è una meta molto gettonata dalla clientela italiana. Anche noi come Hotel Plan Italia abbiamo importanti investimenti sul territorio egiziano e stiamo pensando anche di incrementarli, facendo fede sul fatto che comunque il turismo è una voce primaria nel bilancio dello Stato Egitto e anche questa recente crisi politica in parte è anche scaturita dal fatto di un'insoddisfazione di come stava andando avanti la politica del paese verso gli addetti ai lavori del turismo. Dottor Battifora, grazie per averci dedicato questi minuti, buona giornata. Grazie a lei e agli ascoltatori. Allora, intanto sto notando che non stanno arrivando tante telefonate di richiesta di informazioni per chi è pronto a partire appunto per l'Egitto, né tantissimi messaggi, ci sono tanti un po' polemici sul tema della vacanza, scegliete altre mete, se comunque un po' di tensione c'è perché non ne scegliete altri di posti. Detto questo, io così faccio una conclusione, traggo una conclusione che evidentemente, Marina Firrao, aiutami tu, partiranno tutti tranquillamente almeno per il momento e per le prossime settimane, perché altrimenti, come è successo in altre circostanze, ci sarebbero arrivate decine di messaggi e telefonate. Che ne pensi? Io ho una considerazione buona e una triste da fare. Una è che evidentemente noi italiani siamo un po' fatalisti, stiamo ad aspettare a vedere cosa succede, abbiamo gran voglia di vacanze, quindi continuiamo a sperare fino in fondo, che è uno degli atteggiamenti tipici. Oltre alla FIFA è il rovescio della medaglia della paura, dell'emotività. L'altra, che invece non è per niente divertente, è il fatto che la domanda di turismo organizzato in questi ultimi anni ha perso quote a due cifre anno su anno, e che quindi evidentemente purtroppo per tutta l'industria del turismo e anche per quella egiziana del turismo, non solo quella italiana, in cui Sharm, come diceva Luca Battifora, è importantissima, il Mar Rosso lo è. In ogni caso, purtroppo, questa comincia a diventare una delle preoccupazioni minori degli italiani. Quindi la vacanza diventa un sogno, diventa una speranza. Sharm costa poco, lo ripeto, è una delle mete al miglior prezzo sul mercato per i contenuti, che sono eccezionali. Le agenzie di viaggi contano moltissimo su Sharm, è una delle voci più importanti, insieme per esempio alle crociere, proprio per questo motivo, ma in questo momento probabilmente il grande pubblico è meno attento ai problemi delle vacanze a Sharm. Considerazione, e questa è una cosa infatti, che dobbiamo notare molto a infatti. Malincuore, con grande grazie, dolore. Grazie Marina per questa riflessione finale. Voglio ricordare agli ascoltatori che per tutti coloro che sono ancora in ballo con la vicenda WinJet di un anno fa, potete andare a cercare tutte le informazioni sulle novità di questa situazione sul sito della Confconsumatori, e l'avvocato Carmelo Calì è a vostra disposizione, anche a nostra, appunto, se volete scriverci, gli manderemo appunto le vostre domande. Un ultimo minuto lo concedo a Flavia Franceschini di Astoi per così descriverci un po' questa estate 2013, come sarà dal punto di vista turistico, almeno in Italia, dottoressa Franceschini. Allora, i dati diciamo sono in linea con quelli dell'anno scorso, anche perché chiaramente siamo in una fase innegabile, recessiva, c'è stata una forte contrazione dei consumi, quindi fra i consumi ci sono anche i viaggi. In realtà il dato è in linea con quello della precedente estate, e poi peraltro i bilanci si fanno molto più in là, perché c'è un atteggiamento diciamo delle second, nel senso che gli italiani sono avvolti in questo clima di incertezza e non è che non decidano di partire, però decidono all'ultimo, nel senso che l'advance booking ormai è un miraggio. Pagate purtroppo tutte le spese fisse, vediamo quello che rimane, e con quello che ci rimane appunto si parte all'ultimo esattamente, momento. Esattamente, benissimo. Però ecco appunto i dati sono in linea con quelli della precedente stagione, e notiamo questo fenomeno che ormai insomma c'è, che è quello della prenotazione sottodata, il last minute. Appunto, io volevo anche ricollegarmi a devo chiudere sì, dottoressa Franceschini, allora, mi rimane, la rinvito presto, grazie. Senz'altro. Grazie a tutti per essere stati con noi. Salva Danaio torna lunedì con i bonus casa, buon weekend a tutti.